snowflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch, we're just peel out the watch, we're. Was a good solution. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo con una nota. Che cos'è la memoria? A cosa serve? L'Occidente ha mandato al potere i nazisti in Ucraina. La proposta all'Assemblea Generale dell'ONU del 28 novembre 2014, che impegnava gli Stati a combattere e a condannare il nazismo di ieri e di oggi, ha visto il voto contrario di USA, Canada e Ucraina e l'astensione dell'Italia e degli altri paesi dell'Unione Europea. Le antifasciste e gli antifascisti in Italia, la manifestazione per i fatti di Cremona non è che l'ultimo esempio, vengono perseguitate e perseguitati attraverso la demonizzazione dei media, la repressione poliziesca, le condanne esemplari e dure della magistratura, sollecitate dalla violenza e dalla delazione dei soliti noti. PD e SEL in testa, CGL e AMPI, annessi, connessi e collaterali. La condanna del fascismo è solo di facciata, le modalità fasciste e naziste impregnano questa società. Ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo. La prima parte della nostra trasmissione l'abbiamo intitolata "Con cosa dobbiamo fare i conti". Perché l'abbiamo chiamata "Con cosa dobbiamo fare i conti"? Perché, diciamo, nell'ambito femminista adesso istituzionale, istituzionale e tutto quello che gira intorno a questa a quest'ambito. Questo ambito femminista che si dichiara femminista è interessato a tutta una serie di cose, cioè di che cosa parla? Parla per esempio di una donna presidente della Repubblica. Siccome adesso ci sono le elezioni per la nuova presidente o il nuovo presidente, questo è un argomento che le interessa tantissimo. Esempio, no? Su uno dei siti, uno dei tanti siti di questo tipo, per esempio in genere, presidenta una donna al Quirinale. Per innovare e crescere servono le donne. La corruzione non è femmina. Proviamo a capire perché dicono così, no? Mentre noi sappiamo benissimo che l'emancipazionismo usato come fine e non come mezzo non ha portato assolutamente nessuna garanzia alle donne. Le donne non sono buone e cattive, non sono portatrici di valori particolari di bontà o di negatività, sono oppresse e questo le caratterizza come gruppo. Però l'emancipazionismo usato come fine e non come mezzo per una strada di liberazione ha portato un mucchio di problemi e di danni che adesso vi diremo. Negli anni 70 alcune in buona fede e altre in cattiva sostenevano che l'entrata delle donne nelle istituzioni avrebbe modificato queste positivamente. L'esperienza ci ha insegnato che non è andata così. Le donne nelle istituzioni si sono messe insieme ai maschi al servizio del sistema. La soluzione non è certo rifiutare l'emancipazione. Le donne fanno e devono fare se vogliono qualunque lavoro e lo fanno bene e male come i maschi, ma non hanno portato e non possono portare nelle istituzioni nessun cambiamento e il giudizio politico su quello che fanno è giusto, doveroso, auspicabile e necessario. L'emancipazione da cui comunque non si dovrebbe tornare indietro non solo non cambia la società, ma quando diventa un fine e non un mezzo non aiuta, anzi è di ostacolo alla liberazione delle donne. Il percorso emancipatorio, fatto proprio come fine e non come mezzo, dalle componenti vincenti del femminismo degli anni 70 ha stravolto il percorso di liberazione, confondendo piani che avrebbero dovuto essere solo strumentali con piani di rottura con l'ordine sessista e classista stabilito, riportando la lotta femminista a modalità funzionali a questo sistema, anzi facendone un fiore all'occhiello del sistema stesso. E infatti, e poi allora, questa è una notizia, e poi di cosa parla questo ambito, questo femminismo, questo che si dichiara femminismo e che poi è quello che rappresenta il femminismo nel comune sentire, in tutti gli ambiti, chiamiamoli così, dei media, che viene propagandato come il femminismo vero, no? Certo, non stiamo parlando qui né delle compagne né delle femministe che lottano tutti i giorni contro questa società, contro l'ordine patriarcale, sessista e classista. Un altro degli argomenti che va per la maggiore adesso in questo ambito femminista è prendersela con le donne islamiche. Dopo quello che è successo a Parigi circolano articoli di questo tipo: matrimonio e martirio, chi sono le spose della Jihad? Quella donna velata e armata, è il momento di interrogarci. Poi ancora, questi sono non sono solo i media mainstream, ma sono proprio alcuni blog, alcuni siti femministi. Islam e famiglie, cosa potranno insegnare quelle mogli costrette dai mariti a restare ignoranti, isolate e separate? Allora, tutto quello che lo stesso femminismo mainstream ha sempre detto, la banchezza abbagliante, tutti i discorsi sul postcoloniale, i convegni accademici, le differenze culturali, l'intersecarsi delle culture, eccetera, sparito, improvvisamente sparito di fronte alla chiamata alle armi dell'Occidente contro il pericolo islamico, e le femministe si sono assolutamente adeguate. Bene, terza notizia. No, terza notizia, non è una notizia, è tanto per farvi capire che cosa, di cosa parla il femminismo mainstream paraistituzionale adesso, no? Cioè, di cosa vorrebbe farci parlare. Allora, un altro è per esempio One Billion Rising del 2015. One Billion Rising sarebbe una manifestazione mondiale che dovrebbe avvenire il 14 febbraio, lanciata da un'americana che in pratica è considerata, Eva Ensler, una femminista storica tra virgolette, per l'opera I monologhi della vagina, scritta nel 96. Beh, potenza mediatica anglosassone, questo One Billion Rising, che dovrebbe essere questa danza, perché è una danza, cioè tutte le donne di tutto il mondo il 14 febbraio dovrebbero danzare insieme contro la violenza maschile. Allora, appunto, potenza dell'egemonia culturale anglosassone, per cui vorrebbero farci passare, e poi la fanno passare, perché gli anni passati è anche passata, questa cosa come un evento positivo, mondiale, tutte le donne unite. E volete sapere come si chiama quella del 2015? Revolution. Si chiama Revolution perché l'uso di questi nomi, rivoluzione, liberazione, eccetera, eccetera, è diventato un fiore all'occhiello del sistema, è stato devitalizzato. Adesso anche le banche fanno il conto rivoluzionario, no? Le banche fanno il conto rivoluzionario, le macchine sono l'ultimo modello, ti fa riprendere il senso della vita, è antagonista, ci sono delle macchine ribelli, e anche One Billion Rising è revolution, dai. Thank you. Allora, che cosa, perché abbiamo fatto questa miscellanea di notizie, tanto per darvi l'idea di quello che è il contesto mainstream femminista? Perché? Perché è chiaro che noi stiamo riflettendo da tanto tempo su che cos'è il femminismo per noi, come si inserisce in questa società, che cosa succede, come veniamo oppresse, e quello che siamo riusciti a tirare fuori, magari non sempre siamo riusciti a comunicarlo, siamo riusciti a trasmetterlo. C'è sempre uno scarto, no? Fra l'analisi e il pensiero, e poi come una riesce a comunicarlo fuori, come riesce a tradurlo. Però una cosa è certa, che il femminismo occidentale necessita di una presa di coscienza e di analisi su come si muove questa società, ma una presa di coscienza forte e importante. Perché noi come femministe, e comunque la storia del femminismo occidentale ormai ha attraversato le rivendicazioni di uguaglianza e di diritti, ha preso coscienza dell'esistenza di un gruppo oppresso, ne è nato il separatismo, ha fatto le esperienze matriarcali, quelle dell'autocoscienza, il femminismo della differenza, l'emancipazionismo ha preso una strada, no? È evidente la necessità della lotta di genere e di classe, però in questo momento il femminismo, abbiamo la sensazione netta che il femminismo sia impantanato. Il femminismo è impantanato su posizioni che in effetti riflettono due cose: o per mancanza di volontà, o per così, perché sono cose che in effetti fanno sbarellare assai. Però è successo questo, che il neoliberismo ha sussunto e strumentalizzato e strumentalizza tuttora le lotte e le oppressioni e si muove in questa ottica. Però che ha fatto? Che l'emancipazione è diventato un nuovo strumento di oppressione, e che ci sono donne che, sfruttando l'emancipazione, si vendono al potere e opprimono tutte le altre donne. E in questo senso poi dei potenzi sono fondamentalmente tutte le lotte che vengono portate avanti, no? Perché molto spesso ci rimane un po' difficile capire che magari per il femminismo, no, questo sia, vabbè, non sia un grave problema, e che quindi appunto il fatto che magari si allarghi la questione sulle donne sul lavoro, no, per esempio, o che ne so, un'altra cosa che riguarda il mondo femminile, e diciamo che l'opinione poi comune spesso porta a pensare che in realtà il problema sia di tutte quante, che quindi tutte quante insieme si possa risolvere. Questo però lo rende una lotta corporativa in cui si parla di donne senza definire in nessuna maniera questa categoria, che non è una categoria politica. Cioè, faccio un esempio banale, cioè nel senso, si confondono i piani, si confondono anche, cioè ci confondono, perché non è che ce li confondiamo noi, ci confondono in realtà gli obiettivi, ci confondono gli amici e i nemici con cui dobbiamo stare. Se pensiamo appunto che se non continuiamo comunque a mantenere alta l'attenzione, molto spesso veniamo fregati. Poi magari, essendo compagni e compagne, ovviamente abbiamo la nostra coscienza, abbiamo la nostra preparazione, e quindi riusciamo magari a distinguere. Però molto spesso anche nel lavoro politico che facciamo questo si perde, perché pensate a Kobane, che adesso è sulla bocca di tutti quanti, e comunque ricordo che il PKK è ancora un movimento dichiarato terroristico dall'Europa e dalla NATO. Quindi, e ci sono esponenti di destra, donne, che si rivendicano le donne di Kobane. Sì. Allora, quindi abbiamo detto, no, che l'emancipazione è diventato uno strumento di oppressione, perché ci sono donne che, sfruttando l'emancipazione, appunto, si vendono il potere e opprimono tutte le altre donne. C'è difficoltà a prendere atto di questo, o meglio, si prende atto di questo, però non si traggono le conseguenze. Tanto per darvi un'idea, no? La violenza sulle donne, sulle diversità e l'oppressione vengano strumentalizzate per leggi securitarie, per controllo sociale, il femminismo lo denuncia, lo denunciano. Noi chiaramente stiamo parlando di quell'ambito femminista che va per la maggiore e non delle compagne, delle compagne femministe, anche se poi questo sentire attraversa anche loro e attraversa anche noi, no? Quindi si prende atto che c'è questa strumentalizzazione in funzione di leggi securitarie e controllo sociale, però non si va oltre, come se ci fosse la paura di mettere in discussione dalle fondamenta su tutti i discorsi fatti finora, e purtroppo c'è del vero in questo, perché invece andrebbe smascherato il ruolo delle patriarche, quelle che abbiamo chiamato noi patriarche, che sono praticamente quelle che gestiscono il potere e fanno parte ormai del patriarcato a tutti gli effetti, perché il patriarcato le ha usate in cambio della promozione personale, le usa in cambio della promozione personale. Allora, che cosa significa questo? E poi, per esempio, anche il ruolo di tutte le associazioni femminili e femministe socialdemocratiche, come d'altra parte anche delle ONG, delle ONLUS e via dicendo, no? E degli strumenti corporativi, come diceva prima Noemi. Quindi andrebbe aperto un dibattito forte su questo, perché ci dovrebbero essere pratiche di lotta nuove e diverse, altrimenti c'è un non detto di sottofondo che toglie forza al femminismo, perché se non si dice le cose come stanno, se non si dice la verità, molto spesso le lotte sono contro di noi. Altrimenti, come diceva anche Noemi prima, si parla di qualcosa o fuori o lontano da noi, no? Di lotte in altri paesi, di lotte di altri popoli, di lotte di altre donne, e se ne parla o bene o male a seconda delle collocazioni e delle visioni politiche, però ci si appiattisce su discorsi che si mordono la coda, cioè noi femministe occidentali, il femminismo occidentale deve fare i conti con la situazione occidentale, cioè deve fare i conti con quello in cui siamo calate adesso. Altrimenti, tanto per dare un'idea, no? Sono stati fatti discorsi, quello che dicevo prima, infiniti, no? Sulla bianchezza abbagliante, tutti i discorsi, il femminismo postcoloniale, tutte le analisi di questo tipo, però sono crollate miseramente di fronte a Je suis Charlie, cioè hanno chiamato a raccolta. E allora non esiste più bianchezza abbagliante, non esiste più femminismo, lo studi postcoloniali. Chiaramente, ribadiamo, noi non stiamo parlando delle compagne, non stiamo parlando di un certo tipo di femminismo, ma che è quello dominante, no? È quello che fa egemonia. E allora vorremmo girare una serie di domande che ci siamo poste noi e che vorremmo porre all'attenzione delle compagne, delle femministe in primis. Perché? Perché ci rendiamo conto che, o almeno ci siamo così rese conto che, se non diamo risposto, se non affrontiamo questo, rimaniamo sempre sospese, no? Per esempio, ne possiamo leggere qualcuna. Che ruolo ha adesso l'emancipazionismo? Che significa invece liberazione e che significa libertà? Qual è il ruolo delle donne di potere e di quelle che a vario titolo sostengono questa società? Come la classe attraversa il genere? Quali sono le colpe del femminismo nella demonizzazione delle lotte sociali, nell'assoluzione della violenza dello Stato, nella demonizzazione delle rivolte degli oppressi e delle oppresse? Quali sono le responsabilità del femminismo nella demonizzazione che ha operato il capitalismo nei confronti del concetto di ideologia per mantenere solo la propria? E come le lotte specifiche possono non diventare categoriali? Quali sono le responsabilità del femminismo nella naturalizzazione del neoliberismo nella società? Perché il femminismo, noi dobbiamo prendere atto purtroppo che il femminismo ha una responsabilità forte, soprattutto in tre cose. Ha avuto una responsabilità forte con cui noi dobbiamo fare i conti, siamo costrette a fare i conti. Una è la demonizzazione della violenza, il rapporto violenza-non violenza, tutto il discorso e la costruzione che è stata fatta intorno a questo, e quindi la conseguenza e demonizzazione di tutto un certo tipo di lotte, la demonizzazione del concetto di ideologia, e i percorsi femministi sono corresponsabili della naturalizzazione del neoliberismo in questa società. Noi ci rendiamo conto di dire delle cose, di porci delle domande che sono pesanti, però ci vuole una risposta. E a proposito di repressione, di lotte, di controllo sociale, sono successe due cose, sono successi due avvenimenti proprio ieri e oggi. Praticamente c'è stata la, come tutti ben sapete, fino a ieri c'è stata l'occupazione dell'anagrafe contro l'articolo 5 che toglie la possibilità di avere le residenze all'interno delle occupazioni o comunque degli occupanti non a titolo, e quindi è stata fatta questa occupazione di 14 giorni e ieri mattina è stata sgomberata dalle forze dell'ordine e sono stati prima arrestate, cioè fermate 10 persone, dopodiché alcune di queste non avevano i documenti e comunque non hanno il permesso di soggiorno, quindi 3 di questi compagni purtroppo sono stati portati al CIE di Ponte Galera, il lager di Roma, e hanno subito questa mattina un processo. Noi compagni e compagne abbiamo fatto un presidio lì davanti all'entrata del CIE in solidarietà, quindi abbiamo ricevuto anche un sacco di chiamate dando dal microfono il numero di telefono per sentire com'era la situazione. La situazione è pessima, è orribile, e purtroppo il processo ha confermato la permanenza all'interno del CIE e questi 3 compagni stanno rischiando l'espatrio. E quello che vogliamo dire noi in breve è semplicemente che il CIE, oltre ad essere un lager, un luogo veramente di tortura, è un luogo che adesso ha una funzione politica ben precisa, e è strumentale a quello che è la repressione e la punizione di questo Stato che non tiene conto assolutamente delle nostre vite, ma semplicemente ci gioca con le nostre vite e ci sposta a seconda di come gli conviene. Non è più solamente uno strumento atto a punire la famosa clandestinità, ma come una donna che stava all'interno del CIE albanese che ci ha chiamato al telefono, ci ha detto che lei è in Italia del 95 ed è rinchiusa in un CIE da un anno. Sì, perché è una cosa che come donne femministe e lesbiche abbiamo denunciato tanti anni fa in maniera molto forte, e poi come coordinamento altrettanto forte, che la detenzione amministrativa e la creazione dei CIE sono uno strumento fortissimo di controllo sociale e di controllo delle lotte morte e di repressione, per cui è uno strumento nelle mani di questo sistema per dividere, imprigionare, eliminare tutte le soggettività che sono sgradite. Noi come donne siamo sempre, ricordiamoci che siamo sempre ad altissimo rischio quando siamo rifrattari a seguire determinati incipit. Assolutamente. Poi ovviamente in questo momento non è che c'è dietrologia o quant'altro, però in un momento in cui il movimento e comunque in generale questo paese è meticcio, cioè nel senso non si può parlare più del fatto che comunque ci sono gli immigrati clandestini e poi ci siamo noi, cioè nel senso la società si è mescolata. E quindi nel momento in cui un forte movimento come quello della lotta per la casa o quello della logistica, che invece ha molte persone che comunque purtroppo non hanno permessi di soggiorno di pochi temporanei o non ce l'hanno, vogliono colpire lì, anche perché lì vanno a colpire una forte spaccatura che in questo paese del cavolo ci sta, che è il razzismo, e quindi tu crei una spaccatura tra chi è italiano e di diritto e chi non lo è. E a proposito di vendetta nei confronti di chi vuole autodeterminarsi, di chi rivendica la libertà del proprio territorio, la tutela del proprio territorio, abbiamo in collegamento una compagna Notav che ci dirà il suo punto di vista e ci farà un'analisi politica del processo che è andato è una sorta di vendetta appunto dello Stato, del maxi processo che è andato a sentenza ieri, e ci sono state condanne per 140 anni e il Tribunale di Torino ha operato una vera e propria persecuzione e adesso vediamo, cerchiamo di collegarci con la compagna che ci racconterà lei. Pronto? Pronto? Pronto, ci senti? Ciao, sì, sei in diretta. Abbiamo praticamente preannunciato il tuo intervento, abbiamo detto due parole su questo, sull'esito di questo processo, che in effetti è da considerarsi una vera e propria vendetta di Stato, no? Sì, infatti. Prima di tutto, ciao a tutte e a tutti. E sì, anch'io l'avrei iniziato e l'avrei definito così, come già qualcun altro l'ha definito, cioè una vendetta di Stato nei confronti dei Notav, del movimento Notav. Ieri c'è stata la sentenza di primo grado per i fatti che riguardavano il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena e la giornata di lotta del 3 luglio, parliamo del 2011. Una sentenza che ha visto 53 imputati, 47 condanne e 6 assoluzioni. Gli anni in totale che riguardano le condanne sono ben 142 anni e 7 mesi per la precisione, e quello che era stato chiesto dalle due PM che sostituirono Padalino e Rinaudo, in quanto fin dall'inizio è stato un processo particolare. Sono due donne? Sono due donne, Pedrotta Manuela e Quaglino Nicoletta. Ecco, siccome PM. Abbiamo fatto appena nella prima parte un discorso sull'uso dell'emancipazionismo in funzione per l'oppressione di tutte e di tutti, se cioè, ci sono dei ruoli in cui le donne si vendono a questo Stato, per cui... E probabilmente l'hanno visto anche come un momento per avere i riflettori puntati, certo, e per una probabile carriera. Sicuramente sono state protagoniste insieme a Rinaudo e a Padalino anche ad altri momenti sempre repressivi che riguardano il movimento Notav, ma ad un certo punto della storia di questo processo, processo istruito da Rinaudo e Padalino, avviene la decisione e il subentro di queste due, e quindi loro nella loro requisitoria chiesero quasi 200 anni, 193 anni, e ieri la sentenza ne ha praticamente dati 140, poco più di 140. E sono stati buoni. E una prima riflessione è indubbiamente la volontà politica che vi è dietro a queste condanne, tenendo presente che non si è tenuto conto di nessuna attenuante, non si sono processate le idee dei 53 imputati, si sono processati le loro azioni di resistenza, le idee, quello che rappresenta quindi la lotta Notav, ed indubbiamente rientra in un concetto di vendetta da parte dello Stato. In più va aggiunta a questo anche le provvisionali, cioè sei stato condannato a pagare, quindi oltre ad una condanna penale, cioè di anni, vi è stata anche una condanna da un punto di vista economico. Questo è un discorso molto importante, perché è un discorso passato da un po' di anni ed è un sistema di grande repressione delle lotte politiche. Sì, anche perché quello che ieri si è arrivati a come cifra di provvisionali, siamo intorno ai 150.000 euro, sicuramente più bassa rispetto a quello che era stato richiesto, ma indubbiamente alta, e quindi vengono accordati in favore delle parti civili, e le parti civili sono il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e dell'Economia, LTF, i sindacati di polizia e alcuni agenti feriti. Quindi i 47 condannati si trovano a dover essere anche condannati a dover pagare. Ora cioè immaginiamo questo cosa significa. Significa che entra a piede teso nella materialità della tua vita, certo, perché ovviamente va sui tuoi piccoli beni, quindi certo, può essere sulla casa di proprietà, può essere sul lavoro, perché una busta paga si presta ad avere una decurtazione quando sei condannato, certo, ad una provvisionale di questo tipo, la pensione, il piccolo conto in banca, certo, quindi un'azione che tu scegli anche liberamente a livello individuale di compiere ricade poi anche su tutta la tua famiglia, su chi ti è vicino, e probabilmente in questa storia a livello simbolico Mario, uno dei compagni notav che abita in valle, che è un barbiere, ha un negozio a Bussoleno, si è ritrovato ieri non solo ma quindi con una condanna come lui anche tanti altri, ma con una condanna di 3 anni e più mesi, incensurato da un punto di vista penale, ma con la messa in discussione anche di tutto quello che è sia la sua tranquillità dal punto di vista della casa sia dal punto di vista del suo lavoro, quindi anche il suo negozio. E questo è tanto più grave quanto più attacca proprio le lotte dal basso, no? Le lotte in cui partecipa la popolazione, cioè non il militante, no? Anche se noi non è che rivendichiamo i militanti di professione, ma comunque il militante, bensì la persona che prende coscienza e che comincia a lottare per il proprio territorio, per la propria casa. È ancora più grave, questo è proprio una mannaia per far capire che non è il caso che tu ti prenda la briga di fare questo, no? Indubbiamente. E poi ricordiamoci sempre, comunque io lo ritengo anche questo molto importante, il fatto che questo tipo di impostazione è partito dalla sinistra, tra virgolette, se così si può chiamare, noi la chiamiamo destra moderna, quella riformista, perché è partito dalla Bologna di Cofferati, in cui era previsto che se le manifestazioni sporcavano la città dovevano rifondere i danni, ed è un tipo di atteggiamento che fa proprio parte del famoso politicamente corretto, no? È di una violenza inaudita, tanto più politicamente corretto dice di tutelare la cittadinanza, tanto più è di una violenza fortissima. E va a braccetto col neoliberismo, che è una configurazione di una violenza senza pari. Sì, infatti, perché da una parte cioè, trovi la difesa della proprietà privata, dall'altra parte un dispositivo di attacco di quello in cui dove ti incentivano di più, no? Certo. E di conseguenza diventa una lotta su più fronti. Su più fronti. Pronto? Penso che sia caduta la linea. Vediamo se riusciamo a ricollegarci. E finiamo questa trasmissione con la rubrica di Dennis, quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, rubrica che c'è tutti gli ultimi mercoledì di ogni mese. I contributi che ci manda Dennis hanno una particolarità, e questo in maniera ancora più precisa: hanno la particolarità di essere come una frustata. Cioè, uno può essere d'accordo e può non essere d'accordo, può essere d'accordo in parte e può condividere delle cose e delle cose no, però sicuramente costringono a pensare. Allora, questo si intitola La miseria del sovversivismo. Si creano spesso polemiche su quali scelte siano rivoluzionarie o quantomeno le più sovversive da farsi, e viceversa. Credo che questo dibattito non abbia niente di politicamente produttivo e abbia tutto di alienante per ogni parte coinvolta. La sovversività di quel qualcosa dipende dal contesto in cui quel qualcosa viene agito, e perciò si può attribuire ad un'azione, un discorso, un carattere sovversivo soltanto in una contingenza ben precisa, poiché questi sono prodotto storico e culturale di determinate circostanze. Queste stesse circostanze ne determinano il significato e ne consegue l'eventuale divergenza dallo stato di cose presenti e dall'egemonia culturale attuale. Adottare uno sguardo intersezionale mette in luce l'inconsistenza di questa idea, dal momento che ne smaschera la pretesa di universalità. Come si può dire, ad esempio, cosa è sovversivo per una donna fare, se già soltanto tenendo in considerazione la diversità tra donne bianche e quelle che non lo sono, l'esperienza cambia profondamente e con lei anche l'ipotetico del farsi rivoluzionario? Per le non bianche, per le bianche è stato sovversivo uscire dalle mura di casa e farsi strada nel sociale e nel pubblico. Per le non bianche si può dire altrettanto quando la schiavitù coloniale andava a colpirle proprio recidendo ogni legame familiare? L'idea di una scelta sovversiva mi richiama alla mente, nella sua ingenua socialdemocraticità, un'altra idea che è anche una pratica, quella del consumismo etico. Entrambe postulano, prima di ogni cosa, che sia possibile scegliere e che dal momento che è possibile scegliere, la scelta da fare è quella che viene posizionata come eticamente e quindi politicamente auspicabile. Ci sono buoni motivi per dubitare che questa possibilità di scelta esista, e ce ne sono altrettanti per sconfessare l'imprescindibilità di certe scelte, e cito quella che mi sembra più significativa: il rischio, ahimè, piuttosto concreto di una critica che continui a vertere inutilmente sul gesto individuale senza tenere minimamente conto né delle sue ragioni né del contesto in cui si svolge, perseguendo un ideale fascista di coerenza più vicino al martirio che alla lotta contro ogni forma di oppressione. Il sovversivismo non è unismo, come per lo concepiamo di solito, cioè discriminazione, oppressione, ostilità aperta o sottile. È molto altro, che riguarda una specifica categoria di soggetti umani o non umani in maniera sistematica. È più un modo di pensare teso alla trasgressività compulsiva. Giulia Serrano, in Whipping Girl, lo definisce in maniera molto più precisa e contestuale all'ambiente femminista e queer. Il sovversivismo è la pratica di esaltazione di certi generi, certe espressioni sessuali e certe identità semplicemente perché sono non convenzionali o non conformi. Serrano dice: in superficie il sovversivismo dà l'apparenza di ospitare una serie apparente infinita di generi e sessualità, ma questo non è proprio il caso. Il sovversivismo ha confini molto specifici, ha un altro, glorificando identità e le espressioni che sembrano sovvertire o soffocare i binari di genere. Il sovversivismo crea automaticamente una categoria reciproca di persone le cui identità di genere e sessuali e le espressioni sono di default intrinsecamente conservatrici, addirittura egemoniche, perché sono viste come rinforzo o naturalizzazione del sistema del binarismo di genere. Giulia Serrano nel suo libro lo usa per descrivere come gli atteggiamenti sovversivisti si manifestino negli spazi queer e trans contemporanei, in cui i maschi, le identità transmaschili, sono visti come più sovversivi rispetto a quelli femminili, transfemminili. e dove le identità e le espressioni, ad esempio le pratiche legate al drag, l'essere gender queer che sfocano il genere, sono viste come più sovversive di quelle identità considerate binarie, ad esempio donne e uomini transessuali. Un altro esempio di questo atteggiamento è costituito dall'esclusione delle persone bisessuali, giustificata per l'appunto con argomentazioni risibili quali il rafforzamento del binarismo di genere, il quale deriva dall'errata considerazione che l'interpretazione letterale dell'etimologia di una parola ne indica il significato odierno. Se bisessuale è un esercizio di binarismo per via del fatto che bi significa due, allora le lesbiche provengono dall'isola di Lesbo, percependo salari in cloruro di sodio. Bisessuale, proprio come omosessuale e transessuale, è una parola nata nel contesto medico e reclamata dalla comunità arcobaleno. Perciò il suo binarismo vero o presunto non è affibbiabile alla comunità, agli individui che ne fanno parte, all'identità romantico-sessuale che rappresenta. Specie se una parte considerevole delle organizzazioni e comunità di persone bisessuali adottano una definizione di bisessualità che binarista non è. Se pensiamo altrimenti, dovremmo accusare coloro che si definiscono omosessuali di autopatologizzarsi. C'è un binarismo di genere, certo, ma le accuse di rinforzo arrivano a una comunità piuttosto marginalizzata. È curioso che tutti si preoccupino di chi per davvero o per finta rafforzi il binarismo, senza preoccuparsi di chi in primo luogo l'ha edificato nei corpi e nelle esperienze. Questi censori sono funzionali alla guerra intracomunitaria, al mantenimento del mortifero dominio eterosessista, e sono considerevolmente responsabili dell'indisturbato proseguire delle ingiustizie inquadrate dalle agghiaccianti statistiche che riguardano le persone bisessuali. Ma ritorniamo a noi. Quello del rinforzo è un mito prodotto proprio dal binarismo di radicalità non radicalità. Il sovversivismo, appunto, attuato da soggettività che nel tentativo di abbattere gerarchie ne costruiscono altre, generando un'altra diversità, un nuovo altro da sé, che si suppone conservatore e per questo è considerato cattivo. Inoltre, un grosso pericolo del sovversivismo risiede nel fatto che esso genera un processo di esclusione di ciò che sembra meno trasgressivo, atipico, non convenzionale, e poi si rende complice della sussunzione neoliberista della gettonata controparte sovversiva, commerciandola, perciò depoliticizzandola e depotenziandola nelle sue già scarse potenzialità. Infine, esso si accompagna quasi inevitabilmente alla ricerca della purezza militante individuale, un mostro che trasforma la solidarietà in competizione e l'azione diretta in mania di protagonismo, cuocendo ogni potenzialità di cambiamento sociale nel brodo di un più che disumano ultraindividualismo cellolunghista. E questo è quanto mi basta per rifiutarlo con tutto me stesso. Allora, il contributo lo potete trovare sul nostro blog, coordinamento.noblogs.org, e anche su Intersezioni, che è un altro blog dove intersezioni.noblogs.org, che è un altro blog dove scrive Dennis. E non facciamo in tempo a leggere la parentesi di questa settimana, perché il nostro tempo è scaduto, purtroppo. E la troverete comunque sempre sul nostro blog, sempre su coordinamento.noblogs.org, e comunque anche sul sito della radio www.ondarossa.info nelle trasmissioni, nello spazio dedicato alle trasmissioni. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo. E un saluto particolare a tutti e tutte coloro che sono recluse in CIE, galere, lager e quant'altro. E quant'altro è previsto da questa società. E anche a tutte quelle, e ci mettiamo anche noi, che siamo rinchiuse nella gabbia, in questa gabbia invisibile di segni della società, del capitale e del patriarcato, e da cui tentiamo di liberarci ogni giorno della nostra vita. Ciao. Ciao. It was a good